versione di Oscar. Di Oscar Giannino. This is the end. Beautiful friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 30 di dicembre. Siamo in diretta alle 16:32, primi 20 secondi. In questo martedì pomeriggio, l'argomento della puntata è il troppo che ancora non riusciamo a capire. Noi, come tutti voi, perché ovviamente non è che abbiamo più informazioni di quelle che escano in tempo reale su questo dramma, anzi tragedia, visto le vittime, che è avvenuto l'Adriatico tra le acque della Grecia, quella italiana e quella dell'Albania nella Norman Atlantic in questi due giorni. Troppo che ancora non si capisce, non si sa, almeno questa è la mia impressione, a dire la verità, senza sostituirci né alle indagini dei magistrati che arriveranno, come ovvio, né facendo i moralisti, ma anche senza quel tono di un po' trionfale ottimismo che c'era ieri nelle prime ore della mattinata, per così dire, nel paragone tra la Costa Concordia e quello che avveniva sulla Norman Atlantic. Ecco, la mia opinione personale, non so come la pensate voi, ma chiamateci per dire come la pensate fino a questo momento di questa vicenda. Chiamateci, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, mentre 349 238 6666 per gli sms. E che le tante tragedie che avvengono sul mare e quelle che avvengono negli anni, nei decenni, anche con navi italiane nelle acque italiane, avrebbero dovuto insegnarci di volta in volta che il mare non fa eccezione rispetto ai difetti, ai guai, ai limiti culturali, ai limiti delle norme, del rispetto delle norme dei paesi le cui bandiere battono, dei paesi che toccano, e anche dei continenti, visto che il Mediterraneo è poi l'incrocio tra l'Europa, l'Asia, l'Africa. E il mare però avrebbe dovuto insegnarci, ci deve insegnare tante volte, che il mare dà meno scampo rispetto alla terra quando poi tutti questi limiti, difetti, guai si sommano a ciò che il mare, malgrado la tecnologia, le previsioni meteo accurate, eccetera eccetera, è sempre in agguato. Gli incidenti, il fuoco, le condizioni del mare che peggiorano e così via. Allora, la mia opinione a oggi, due giorni dopo, è che, dando per scontato il caos che si crea quando per via delle acque in cui sta una nave che batte bandiera italiana, che è di un armatore italiano pur non essendo italiana la compagnia, con un noleggio che scade il 15 di gennaio, quando però il caos si crea inevitabilmente perché c'è un concorso internazionale di mezzi e di autorità, quindi, che devono cooperare ai soccorsi, come è quello che è avvenuto, viste le circostanze, di una nave priva di governo che quindi scarrocciava, andava alla deriva nell'Adriatico, con la cooperazione delle autorità della Grecia, dell'Italia e dell'Albania. Al netto di tutto questo, e al netto del riconoscimento che il comandante della nave italiano è stato l'ultimo ad abbandonare la nave una volta che era stata assicurata ai cavi di rimorchiatori, tentativi tante volte falliti, e sappiamo anche adesso che hanno portato alla morte anche di due marittimi albanesi che erano su uno dei rimorchiatori albanesi che ha provato insieme a quelli italiani l'aggancio. È riconosciuto il giusto valore ai marinai italiani, come a quelli greci e albanesi, e agli elicotteristi, ai cooperatori dell'aeronautica militare di tutti i paesi, quindi, che hanno prestato i soccorsi. Come avete capito, è stato possibile salvare i passeggeri solo grazie agli elicotteri per via delle condizioni del mare, anzi anche l'aggancio con i rimorchiatori è stato possibile solo perché gli elicotteri italiani spostavano sulla prua, dove nel castello di prua non era possibile portarsi a piedi sul ponte, viste le fiamme, è stato possibile solo fare l'aggancio portando in prua con un elicottero i tecnici sulla nave, che erano in grado di tentare di raccogliere le cime e assicurarle. Ma al netto di tutto questo, noi troppe cose non le sappiamo, non le capiamo, Non sappiamo ancora quanti erano i passeggeri a bordo e riscopriamo puntualmente nel Mediterraneo, anche sui percorsi di linea ordinari, ci sono fior di clandestini che si imbarcano su ogni nave. A oggi, dice la procura di Bari, c'è stata una conferenza stampa, la lista sui passeggeri imbarcati contava 478 persone, ma su questo lo stesso procuratore dice non lo sappiamo precisamente. Di sicuro risulta, questa è le prime ore del pomeriggio, procura di Bari che parla, almeno 3 clandestini, 2 afghani e un siriano. Una stima di overbooking di passeggeri rispetto a ciò che poteva portare la nave di 18 persone, quindi almeno 499 imbarcati, però è solo una prima stima. Il conto delle vittime ieri sembrava 1, 3, poi 4, a oggi, a questo momento, sembrano 11. Non sappiamo, sì, ripeto, quanti clandestini abbiano perso la vita nel garage dove il fuoco si è sviluppato, né se il numero di mezzi imbarcati fosse corrispondente, cioè tir, autotreni, automobili, al limite di portata della Norman Atlantic. Non sappiamo quanto corrisponda al vero, però ciò che testimoniano tutti i primi salvati, che dicono di non aver avuto avvisi di pericolo da parte dell'equipaggio, di non aver visto l'equipaggio adoperarsi e di non aver riscontrato l'entramento dell'equipaggio quando iniziati i salvataggi con gli elicotteri, dicono alcuni dei salvati, avete letto sicuramente le interviste del cantante lirico greco che è stato salvato, e la signora ha detto che per salire sull'elicottero altri passeggeri che non parlavano greco, non parlavano italiano, lei parla di voci arabe e così via, picchiavano le donne per tentare di impedire di salire a bordo. Tutto questo non lo sappiamo, abbiamo letto di una verifica tecnica a bordo della nave da parte di Parimu, che è una associazione internazionale che fa queste verifiche sul traffico internazionale commerciale, con alcuni punti che non tornavano e i tecnici ci hanno detto che però non erano ostativi alla navigazione e che comunque decide il comandante. Dovremo capire dal comandante come e perché, in presenza di problemi verificati sulle porte tagliafuoco, la nave parte comunque, e dobbiamo capire un mucchio di cose. Dobbiamo capire ancora, per esempio, come mai questa nave, una volta messa in sicurezza e agganciata quindi ai rimorchiatori, abbiamo tutti letto e ripetuto che andava verso un porto dell'Albania. Tra l'altro stamattina, in queste ore, voglio dire, il Presidente del Consiglio italiano è in Albania, e poi invece le procure italiane si sono adoperate per un sequestro giudiziale affidato ai rimorchiatori italiani che la seguono, e avrebbero ottenuto che poi invece va verso Brindisi e va verso l'Italia, sicuramente per avere un riscontro diretto e poter fare verifiche dirette che saranno necessarie all'inchiesta. Però la verità è che a questo punto ancora non sappiamo tutte queste cose. Allora, per parlarne, io ho deciso, tra le tante cose che ho letto stamattina, in particolare me ne ha colpita una, oltre ai tanti resoconti giornalistici che ovviamente di ora in ora cambiano e si aggiornano, perché ho letto un articolo che mi è piaciuto molto, di una persona che ha più caratteristiche per poter parlare con competenza di un disastro in mare. La prima caratteristica è quella di insegnare diritto della navigazione e dei trasporti all'Università di Bari. La seconda è quella di essere un grandissimo appassionato di mare, di viaggi per mare in tutte le condizioni, non di viaggi per mare sugli yacht solo, ma alla ricerca di ciò che nel mare si rispecchia, dei conflitti culturali, sociali, di reddito. E la terza caratteristica è che è anche uno scrittore, tant'è che trovate in libreria il suo ultimo saggio, che è un'inchiesta appunto, non è un romanzo, Come il profondo il mare, e l'editore è Chiare Lettere. E lo ringrazio di essere qui con noi, perché stamattina ha scritto un articolo nel quale facciamo un paragone tra quello che è avvenuto in questi due giorni, in queste ore, e un'altra tragedia della marineria italiana di 34 anni fa, con, sempre sulla rotta tra Italia e Grecia, tra Grecia e Italia, con un traghetto, l'Ileane, e anche lì ci fu un incendio terribile con numerose vittime. Nicolò Carnimeo, grazie e buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, io non so come la pensi lei di tutto quello che ho tentato di sintetizzare senza giudicare, che non ho ancora capito e che non, il pubblico non è in grado di capire e di sapere. E la prima cosa da cui partirei è se la colpisce in particolare tutto l'affastellarsi di cose che non sappiamo, se c'è qualche particolarità o se, ohimè, è normale quando un mezzo navale tra coste in cui c'è un traffico da anni di clandestini, di carne umana, di profughi, di gente che scappa dalle guerre e così via. Ecco, che cosa la colpisce di più a oggi di queste ore? Allora, lei ha detto una cosa molto giusta: il mare non perdona. Tanto è vero che su tutti i mercantili c'è una scritta a caratteri cubitali: security first, la sicurezza per prima, ed è quello a cui il comandante e l'equipaggio di qualunque nave che affronti una piccola linea, un grande viaggio, devono tendere. Che cosa può essere successo sulla Norman Atlantic? Innanzitutto, quello di cui io mi stupisco di più è che sia avvenuto, perché parliamo di una nave abbastanza nuova, quindi che ha a bordo tutta una serie di dispositivi di sicurezza che riescono in qualche maniera a evitare quello che poi è successo. Allora voi pensate, ricostruiamo che cosa può essere avvenuto. Scoppia un incendio all'interno di un garage. Questa non è un'evenienza straordinaria, è qualcosa che può succedere, nel senso che basta un cortocircuito alla batteria di una macchina, basta che una merce vada in autocombustione che scoppia un incendio. Però proprio perché questo lo si sa, c'è una normativa imponente di carattere internazionale e tutta una serie di norme, di comportamenti che il comandante e l'equipaggio devono tenere, che ci consentono di tenere a bada quello che succede. Allora, innanzitutto il garage viene monitorato con le telecamere. Quindi già con le telecamere la zona di prua e la zona di poppa vengono tenute a bada, ma ci sono dei potentissimi rilevatori di fumo e di fuoco, quindi al primo accenno di fumo la plancia di comando viene già allertata. Nel momento in cui c'è l'allerta partono gli sprinkler, che sono delle doccette che vanno proprio dove c'è l'incendio. Se le doccette non hanno effetto, ci sia il secondo impianto antincendio, ovvero quello a foamite con la schiuma. Si riempie completamente il garage di schiuma e ovviamente, in mancanza del comburente, ovvero dell'ossigeno, perché la schiuma mangia lo spazio, il fuoco si spegne. Tutto questo quando può non funzionare? Quando le famose porte tagliafuoco, oppure più che altro le serrande, ci sono delle prese d'aria nei garage della nave, no? Che fanno entrare l'ossigeno e che aspirano i fumi, quando queste non funzionano. Ora io dico che tutta la polemica che c'è stata su quelle porte tagliafuoco è assolutamente sterile, perché io che mi sono occupato anche di controlli, se c'è una detention, cioè se l'autorità ti dice tu devi aggiustare questa porta tagliafuoco, se no non parti, sino a che la porta non viene aggiustata la nave non parte. Assolutamente no. Quindi loro quello lo hanno fatto. Però io cosa rilevo? Probabilmente questa nave non aveva quella manutenzione che si doveva tenere su un traghetto del genere, perché è evidente, secondo me, però è sempre un'ipotesi mia, che qualcosa non abbia funzionato. Ma l'ipotesi, mi scusi, di un traghetto che ogni 5-6 mesi cambia per noli compagnie e rotte su cui serve, è normale. E questo è normale, però a quel punto i controlli sono uguali, oppure il ragionamento, magari ingenuo e stupido, è che chi ha un nolo di 6 mesi l'intervento strutturale, se necessario, lo rinvia, perché dice tanto io me lo utilizzo solo per qualche mese, se la vedrà chi viene dopo. È stupido immaginare questo? No, guardate, il sistema di controlli che c'è su queste cose è veramente molto, molto capillare. Allora, quando una nave deve entrare su una nuova linea, innanzitutto c'è bisogno di un'autorizzazione ministeriale sulla quale viene valutato anche il piano di sicurezza di questa nave. Secondo, ci salgono a bordo le autorità e la nave non comincia la linea se non è veramente tutto quanto a posto. E del resto voi pensate, qualche volta, ecco, noi non abbiamo consapevolezza della marittimità del nostro paese. Noi siamo un grande paese marittimo, con una grande flotta, decine e decine di navi ogni giorno fanno la rotta della Norman Atlantic, certo. E vanno in Grecia, e vanno in Albania, e vanno in Montenegro, ma decine e decine, c'è un traffico enorme. Se il sistema di controlli non funzionasse, ne avremmo avuti degli altri incidenti, invece no. In realtà il precedente è quello di cui ho parlato io nell'articolo, 34 anni fa, sì. E di 40 anni fa. Quindi che cosa succede a bordo di una di queste navi? Quando il comandante, che ha la responsabilità assoluta di tutto questo, ci deve essere stato un errore umano, almeno una colpa in vigilando, nel senso che lui, i controlli delle autorità si fanno all'inizio della linea e poi a campione, ma quando tu sali a bordo, tu devi fare il check, devi aprire le porte tagliafuoco, devi controllare le serrande, devi monitorare che tutti i tir siano stati stivati correttamente, fermati correttamente, devi prevedere la ronda, nel senso che non ti devi fidare solamente degli strumenti, ma devi mandare un marinaio, questo marinaio deve scendere nel garage dove non deve esserci nessuno, e quindi questo marinaio deve controllare fisicamente. Quindi io dico, tutte queste cose, qualcosa su questo non ha funzionato. Che cosa è successo non lo so. Domanda poi che le faccio adesso è: ma qual è la responsabilità del comandante rispetto al fatto? Alcuni dei camionisti che sono stati salvati dicono: nel garage sotto i mezzi c'erano clandestini. Allora qui la domanda è: non può essere che il comandante tenere chiuso l'occhio quando non quando viene l'imbarco, ma una volta verificata la loro presenza. In questo caso come ci si comporta? La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16.50. Stiamo parlando di quello che ancora troppe cose che non tornano e che non sappiamo in realtà di quello che è avvenuto sulla Norman Atlantic in questi due giorni a largo nell'Adriatico. E con noi Niccolò Carnimeo, che insegna diritto alla navigazione e trasporti all'Università di Bari. Sono un appassionato di mare, è un competente di diritto alla navigazione, ma anche uno scrittore saggista che fa inchieste sul mare. Allora, che cosa dire di chi, secondo le testimonianze di chi si è salvato, era clandestino nel garage sotto i mezzi, Carnimeo? Ma purtroppo sa quanti ne trovano nascosti all'interno del tir, li trovano qualche volta quando la polizia doganale, quando escono. Lì c'è gente nei porti greci, c'è gente disperata che ci prova in tutte le maniere. Poi magari ci potrebbero essere anche delle piccole connivenze, ma io non penso proprio che un comandante italiano, voglio dire, favorisca una tratta di clandestini. Sinceramente non credo, perché è una cosa veramente troppo penosa e troppo rischiosa, non ci si mette in quelle condizioni. Purtroppo però, voglio dire, questi clandestini continuano a passare e quindi il problema esiste, ma è noto da sempre. Certo. Allora, secondo le prime testimonianze, in realtà il primo allarme interno alla nave sta intorno all'1:30 della notte, e le testimonianze dei primi salvati dicono che poi alle 4:30 la cosa inizia a essere completamente oramai priva di ogni possibilità di rimanere sotto controllo, e da quel momento in poi l'incendio avvampa in tutta la nave, tant'è che poi alla fine, alla mattina, non si poteva stare al settimo ponte, vanno all'ottavo ponte, cioè la parte più alta dove c'è anche il comandante, perché i ponti iniziavano a non poter essere percorsi con le scarpe ai piedi. In questo caso bisogna immaginare quindi un incendio che divampa per ore e ore e ore, si appicca a tutti i mezzi e così via. In quella è un tempo che è coerente al fatto che si utilizzino tutti i diversi mezzi antincendio che ci hai enumerato e che di volta in volta si rivelano non adeguate rispetto alla forza che ha preso la fiamma nel garage con tutti i mezzi stivati, secondo lei? non lo so, si deve intervenire assolutamente immediatamente in quei frangenti, anche perché, ripeto, uno ne ha contezza subito. Non è possibile che la plancia non se ne sia accorta. La plancia se ne è accorta immediatamente, evidentemente hanno provato ad intervenire, probabilmente se le fiamme si sono propagate qualcosa non ha funzionato. Questa è andata così. Ecco, l'altra cosa che appunto fa pensare un po' è che poi si trattava di, rispetto all'età media di questi traghetti, di una nave che poi ha solo 5 anni, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere abbastanza up to date, insomma, rispetto alle strumentazioni, ai mezzi di interventi ordinari e anche di emergenza, o no? Ma assolutamente sì, sono navi nuove, voglio dire, abbiamo navi molto più vetuste nel nostro parco navi anche nazionale. Però appunto è molto molto molto strano quello che è avvenuto. E poi, diciamo, tra le altre cose, gli armatori sono gli stessi che l'hanno costruita, quindi hanno un cantiere navale, quindi sono loro che l'hanno costruita quella nave, e non si può costruire oggi una nave che non abbia tutti i requisiti di sicurezza che internazionali che sono previsti. Sentiamo un po' di ascoltatori, cominciamo con Paolo da Torino. Prego Paolo. Buongiorno, grazie per farmi intervenire. Guardi, io mi occupo di trasporto aereo, sono un comandante di aeroplani di lungo raggio, e ovviamente non voglio entrare nel merito esatto di quanto è avvenuto. La domanda che mi pongo in genere quando utilizzo da passeggero sia treni che navi è: ma questi mezzi hanno gli stessi livelli di sicurezza richiesti per gli aeroplani? Secondo me la risposta è no. Noi abbiamo dei livelli di sicurezza richiesti che sono anche assillanti, direi, forse, ma la pratica dimostra che fortunatamente non lo siano, sia dal punto di vista tecnico delle normative alle quali bisogna ottemperare. Se c'è una singola luce che si accende in un volo, nel volo successivo bisogna indagare, se no il volo non può partire. Oppure, mi scusi, security per quanto riguarda tutto quello che viene imbarcato a bordo. Se lei vuole trasportare un litro di vernice, deve pagare una cifra pazzesca per fare un trasporto di merci potenzialmente pericolose. Certo. Io ho dei dubbi che ci sia un'analoga, avvenga in modo analogo così, il trasporto ferroviario così, o navale. Allora, questa è una domanda che giriamo a Carnimeo. Sentiamo il secondo ascoltatore, Vladimir da Ravenna, prego. Pronto? Eccoci, dica. Sì, volevo una domanda. Se io fossi il capitano, vedo che c'è un incendio in garage. Sì. Sono le telecamere, ha detto il vostro ospite. Sì. Vedo che dentro il garage ci sono dei clandestini, delle persone comunque. Allora, perché togliergli l'ossigeno e soffocarli con delle schiume, togliendo... Cioè, domanda rispetto a quel poco che sappiamo, che ha altro che un suo fondamento. Giriamo entrambe le questioni a Niccolò Carnimeo, prego. Allora, sulla prima questione vi è una normativa, diciamo, quasi simile a quella aeronautica. Voglio dire, i requisiti di sicurezza nel campo marittimo e aeronautico, almeno quelli che io conosco, sono gli stessi. Sa qual è il problema? Che spesso questi traghetti fanno una routine molto ripetuta, nel senso che arrivano, imbarcano, sbarcano e ripartono. E qualche volta l'errore umano sta proprio nella mancata vigilanza, sta in questa ripetitività dei traffici. Ovviamente questa è una cosa assolutamente negativa, perché il comandante sa che si deve tenere in buon conto qualunque malfunzionamento della nave, e il comandante ha il potere anche nei confronti della sua compagnia di non partire se la nave, e lui sa, l'aeromobile non è in perfette condizioni. E secondo, rispetto all'ossigeno e a chi sta nel garage, che non ci dovrebbe essere, insomma. No, non ci dovrebbero essere i clandestini. E quindi questo è complicato dirlo. Agli ascoltatori che mandano messaggi dicendo non dici la figuraccia fatta da Renzi, guardate, se volete lo dico, anche secondo me Renzi ieri ha peccato di un ottimismo che secondo me era fuori luogo, perché queste vicende, l'esperienza insegna che prima bisogna vedere a termine il bilancio, poi capire le responsabilità e ciascuno come si è comportato. Quindi, se volete, ci aggiungo anche la mia di opinione, ma non è di quello che sto parlando. I politici dicano quello che vogliono. Per me la questione è la sicurezza di chi viaggia, quello che bisogna ogni volta imparare la lezione. Ripeto, non dimenticare che il mare dà poco scampo agli errori, anche se poi l'imprevedibile può sempre avvenire. Mi chiedo anche, e chiedo a Carnimeo, ma questa guerra tra autorità per dove deve andare la nave, anche questa è ordinaria in termini di diritto internazionale del mare, oppure insomma ci doveva essere un criterio e quel criterio doveva prevalere? Io sinceramente non ho seguito la questione oggi, quindi non so che cosa sia successo. In realtà è la nave italiana, è stata agganciata da un rimorchiatore italiano, credo, sì. E quindi deve essere portata in un porto ovviamente italiano. Perché su questo c'è stata anche una polemica internazionale con le autorità greche che dicevano ma no, che la nave è territorio italiano. Esattamente, quindi da questo territorio italiano deve venire da noi, insomma. Allora, io ringrazio Carnimeo, oggi l'ho tenuta sul tecnico, ma con lei in realtà qualche altra volta bisogna parlare di ciò, del mare di cui che lei descrive, in quello che scrive, che è uno specchio dei nostri guai di incomprensione culturale tra sponde che vi si affacciano. Però c'erano un po' di interrogativi tecnici da tentare di dare a chi è in ascolto e speriamo che il bilancio delle vittime si fermi qua. Intanto continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.